mesi in attesa. Teorie e tecniche di improvvisazione professionale. In collaborazione con il Master in Radiofonia dell'Università Yulm di Milano. Spesso è una questione di lingua, meglio conoscerne almeno due. In un paese dove il 33% della popolazione soffre dall'analfabetismo di ritorno, conoscere altre lingue straniere oltre alla propria fa ancora un certo effetto, per fortuna. Il 25% dei datori di lavoro scelgono i candidati anche in base alle loro conoscenze linguistiche. Siamo un paese un po' ombelicale, per questo aver studiato all'estero sembra contare meno. L'Erasmus piace al 4,7% dei datori di lavoro, sostiene la ricerca di GDP, l'Associazione di Responsabili delle Risorse Umane. Benvenuti a una nuova puntata di Tesi in Attesa, dedicato ai lavori che gli studenti fanno per mantenersi gli studi. In questo momento, per esempio, mentre molti di voi sono in vacanza e la città sono vuote, un esercito di stagisti è in ufficio, al lavoro, a fare esperienza quando va bene, oppure soltanto cassa per l'inverno. Gli autori del programma sono gli studenti del Master in Radiofonia Quando Verba Manent dell'Università Yulm di Milano, che hanno battuto per mesi le università italiane in cerca di voci e storie di lavori fuori dal comune, audaci, ridicoli, creativi, surreali, ma pur sempre lavori. Iniziamo con la prima storia di questa domenica d'agosto. Quando la creatività diventa uno stile di vita, entra in gioco Nicolò, 23 anni, da Santa Margherita Ligure. Studia fisioterapia, ma potrebbe ambire al record di lavori creativi svolti. Quello di cui va più fiero è il creatore di magliette. L'amore per la sua città lui lo indossa e lo fa indossare. Tutto qui, direte voi? No, assolutamente no, questo è solo l'inizio, perché tra cadute sui pattini, cruciverboni ingombranti e addirittura costumi di Gino il Pollo, la genialità nella sua vita è diventato un marchio di fabbrica, proprio come le sue magliette. Nicolò, quando è nata la tua vena creativa? Ho iniziato nel 2005-2006 un po' per gioco, per avere uno sfogo creativo. E dei miei amici l'hanno vista, allora hanno deciso di finanziarmi quest'idea per renderla vera e abbiamo registrato un marchio alla Camera di Commercio. Come sono queste magliette? Sul fronte ci sta Santa Margherita, dietro l'idea spiritosa e il marchio che è Capefuse, che sono le iniziali dei miei soci, Cristian, Paolo, Franco e Simone. E l'omino, che è proprio il logo, ha le gambe e le braccia messa N, che è l'iniziale del mio nome. Le frasi spiritose possono essere, per esempio, Milano bene, Santa meglio, per prendere un po' in giro tutti i milanesi che vengono qua d'estate. Quali sviluppi ci sono stati in questi 4 anni? Inizialmente la vendita era magari un po' più di nicchia, amici, parenti, gente un po' più di spicco di Santa Margherita. Però poi il nostro amico ci ha dato la possibilità di venderle in un bar. Quali sono i costi? Siamo partiti con un budget di 1.000 euro, perché 700 euro per il registrare il marchio alla Camera di Commercio e gli altri per le prime magliette che abbiamo fatto, perché la prima tranche ne avevamo fatte una ventina, poi avevamo venduto questa ventina un po' con fatica perché il marchio non era molto conosciuto e ne abbiamo venduto un'altra ventina. Inizialmente il prezzo delle maglie era un po' elevato perché era sui 23-24 euro, noi la maglietta la pagavamo 10, quindi dovevamo avere anche un margine minimo di guadagno. Adesso ho trovato una maglieria che me le farà meno sui 6-7 euro, riuscirò a venderle 14-15 euro. Quali sono invece i guadagni? Il primo ordine, come ho detto, era di 15-20 magliette, mentre l'ultimo ne abbiamo fatte all'incirca 60 e le abbiamo vendute nell'arco di un'estate. In questo momento abbiamo finalmente coperto il costo iniziale e ora attualmente siamo in attivo di 200 euro, che logicamente verrà reinvestito per creare delle altre magliette, perché un sogno sarebbe farne un ordine di 100 e vedere come va e poi decidere se aprire una partita IVA. Come riesci a conciliare questa attività con l'università? Bene, perché le creo nel tempo libero, penso magari nel weekend quando ho un minimo di tempo. Però la ricerca delle maglierie richiede sicuramente un po' più di tempo, perché devo andare proprio io con la macchina a parlare con i proprietari. Tu in passato hai fatto tanti altri lavori creativi. Il più recente è stato Gino il Pollo alla Cartoon on the Bay. Il guadagno è stato più o meno di 200 euro. Ero vestito a pollo, un pollo alto 3 metri, giravo fra i bambini a farli ridere. Un altro, un lavoro sui pattini, che facevo volantinaggio per sponsorizzare una gara di vela. Quando me l'hanno proposto non ero molto d'accordo perché io non so andare sui pattini, però quando abbiamo parlato del guadagno, che era di 60 euro al giorno per una decina di giorni, ho risposto sì, so pattinare nonostante tutte le cadute che ho fatto in centro a Rapallo. Ho fatto da steward per una nota compagnia telefonica. Dovevo far compilare a Genova in un centro commerciale un cruciverba largo 3 metri, alto 2. andavo con la mia macchina con questo cruciverba gigante che mi premeva la testa mentre guidavo e prendevo 4,50 euro all'ora. Ma Nicolò da grande cosa vuole fare? Voglio laurearmi, perché fin dalle elementari che io volevo fare un lavoro in ambito medico, però vorrei anche mantenere alcuni lavori che sono per esempio quello delle magliette, perché lo vedo come proprio sfogo mio. Un futuro medico creatore di t-shirt, magari ne creerà qualcuna da mettere sotto al camice per far ridere un po' i pazienti in corsia. Chissà invece che cosa indossava il nostro prossimo intervistato, Francesco, di 24 anni, studente di scienze della comunicazione all'Università di Perugia, quando andava sui circuiti di moto. Non voglio svelarvi altro, chiediamogli qual è stato il lavoro più divertente che abbia mai fatto nella sua carriera universitaria. Il lavoro più divertente che mi è capitato di fare è stato quello di pompiere, diciamo, durante le gare di moto, o meglio, ero addetto all'antincendio durante le gare su alcuni circuiti regionali, dovevo solo fare attenzione che negli eventuali incidenti durante le gare non vi fossero degli incendi. Ecco. Ma quanto tempo hai fatto questo lavoro? Ho collaborato per 2 anni, ancora ogni tanto ci partecipo saltuariamente quando mi chiamano. Generalmente in una giornata, cioè erano 2 giornate, il sabato e la domenica, ci stavano le prove di sabato, la domenica invece ci stavano le gare vere e proprie. E quindi partecipavi a queste gare? Sì. Io praticamente arrivavo lì la mattina presto per le 8, quando ci stava l'inizio delle prove, il sabato mattina, e mi veniva assegnata una postazione, quindi mi davano la divisa e poi venivo accompagnato in postazione e mi accomodavo, aspettavo, diciamo, che finisse la giornata di prove il sabato. Certo. Generalmente erano intorno alle 10 gare più o meno. Quindi quante ore lavori? Intorno alle 8-9 ore. Senti, ma quanti incendi ti è capitato di spegnere? Zero praticamente, perché durante queste gare mi è capitato solo 2 volte che delle moto andassero a fuoco, ecco. Quanto guadagni comunque durante una giornata di lavoro? Intorno ai 50 netti, variabile in base al contributo, diciamo, perché magari in alcune occasioni il pranzo ci veniva somministrato, diciamo, dall'organizzazione, mentre in altre giornate il pranzo era a carico nostro, quindi in quel caso si guadagnava intorno ai 60 euro. Ma se io volessi intraprendere questo lavoro, come si può iniziare a farlo? Dovresti innanzitutto rivolgersi ad un circuito, diciamo, vicino alla zona dove ti trovi, chiedere all'organizzazione e informarti su chi si occupa del servizio di sicurezza durante queste gare. Generalmente sono degli appalti che vengono dati a società esterne. Quindi comunque non è un lavoro particolarmente faticoso? Direi proprio di no. Più che altro è un po' stressante per i timpani, nel senso che lì ti becchi tutto lo smog delle moto che girano per 12 ore e in più il rumore delle moto stesse, insomma. Non avevi delle cuffie? No, però è un po' stressante, diciamo. Però magari per chi abita in delle grosse città è una cosa abbastanza accettabile. Quindi lo consiglieresti come lavoro magari ad altri studenti? Ma sì, è un buon modo per accumulare qualche soldo per pagarsi l'affitto, credo. Ma tu sei appassionato di moto di strada? Sì, di solito seguo il Gran Premio in televisione, ma non sono un particolare affezionato, diciamo, del... In un mese quanto guadagnavi? Mi capitava magari in un mese di lavorare 2 volte, quindi cioè non è che facevo giusto i soldi per pagarsi l'affitto. Certo. Non era la mia attività principale. Da grande, appunto, cosa vuoi fare in realtà? Sto crescendo, ancora ci devo pensare. L'importante è finire l'università. L'ultimo esame che hai fatto? È organizzazione e strutture delle imprese radiotelevisive. Voto? Il voto 27. Spostiamo la nostra attenzione dai circuiti di gara a quelli integrati dei computer. L'ultimo ospite di oggi è infatti un pioniere di internet. Quando ancora pochi italiani conoscevano il web e i più pensavano che la chiocciola fosse solo un animale, lui metteva in piedi un sito internet di grande successo. Abbiamo intervistato Luca Lani, fondatore del portale studenti.it. Ma come ha cominciato? Ma io un po' tipo Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Comunque volevo fare il magistrato, un po' come la mia generazione che è nata con la morte di Falcone, di Borsellino, e quindi voleva dare un contributo al paese. E però poi avevo questa passione fortissima per il computer che nasceva dagli anni 80, dai primi PC. Poi ho avuto il predominio questa parte qua, insomma, su di me. Quindi io mi ricordo negli anni 98, 99, studiavo di giorno e la sera dalle 9 di sera fino alle 4 di notte lavoravo al sito. Questo poi ha avuto anche un impatto, nel senso che poi magari non uscivi più con gli amici, stavi sempre a lavorare, però era stato un piacere, quindi anche perché era una scoperta di un mondo incredibile. Nel 98 poter parlare con gente di tutto il mondo, poter scambiare informazioni di tutto il mondo era ancora una cosa inconcepibile, oggi è normale, ma all'epoca era un sogno. Quando ho deciso nel 2000 di far diventare questa cosa una professione, avevo ancora un paio di esami da finire e inevitabilmente ho scelto proprio di sacrificare, quindi ho accettato gli ultimi esami quasi 24 e quindi ho abbassato notevolmente la media. Inoltre la tesi ho dovuto farla un po' in fretta perché nel frattempo l'azienda era partita, aveva avuto degli investitori che erano entrati, quindi l'ultima fase del mio studio è stata effettivamente sacrificata. I suoi genitori come l'hanno presa? Ma all'inizio magari c'era qualche levata di capo, anche perché mi ricordo per esempio nel 98, nel 99 una volta arrivava una bolletta di tipo 700-800 mila lire, perché all'epoca internet costava tantissimo, io stavo ore collegato. Però poi quando è diventata una professione sicuramente ne sono rimasti contenti e soddisfatti. Quando è che ha cominciato, diciamo così, a poter guadagnare da questa attività? All'inizio era nata come passione serale, quindi come attività no profit, non sì. C'era neanche l'intento di. Poi nel 2000 era diventata una cosa un po' grossa, perché comunque costava 5 milioni di lire all'anno tutta la struttura, quindi era o chiudeva o diventava un'azienda, e quindi ho scelto di far diventare un'azienda. E lì siamo stati aiutati da alcuni fondi di investimento, alcuni venture capital che hanno creduto nel progetto e ci hanno dato dei soldi. Gli studi universitari in qualche maniera l'hanno aiutata nella carriera successiva o no? Ma a me mi hanno aiutato perché poi io per 10 anni ho fatto l'amministratore delegato di questa società, che poi è diventata abbastanza grossa perché era 70 persone. Chiaramente il background culturale e legale soprattutto è stato estremamente utile, perché comunque si tratta poi anche di fare operazioni societarie. Quindi sicuramente è stato importante per me. La sua azienda è sopravvissuta, diciamo così, alla bolla della dot-com? La tecnica è inevitabilmente purtroppo tagliare i costi in maniera spietata da una parte, e dall'altra parte concentrarsi sul business, su un solo business, cioè evitare di fare tante cose, di disperdere energie. Nei momenti di crisi concentrarsi su una cosa e limitare i costi, stringere come dire la cinghia e passata la tempesta poi si ritorna ad assumere persone e a crescere. Noi abbiamo fatto così e la cosa ha funzionato. Ha dei consigli per uno studente che volesse appunto mettere in piedi un'impresa? Non avventurarsi così, siamo senza preparazione, è importante avere un po' di esperienza in qualche azienda del settore, cioè quindi farsi qualche stage e poi sicuramente diciamo avere un'idea propria e seguirla, insomma se si è convinti seguirla fino in fondo, con passione, anche con sacrificio, seguire le proprie passioni ma con un po' di distacco, un po' di raziocinio. Da aspirante magistrato a webmaster di successo, studenti.it unisce l'efficacia della comunicazione web con la voglia di interagire degli studenti italiani. Tesi in attesa per oggi si conclude qua. Il programma è stato realizzato dagli studenti del Master in Radiofonia Quando Verba Manent dell'Università Yulm di Milano. Le improvvisazioni professionali di oggi sono state il creatore di magliette, il pompiere sulle piste di moto e abbiamo sentito Luca Lani, ideatore del portale studenti.it. Le interviste sono state realizzate da Tommaso Aimo, Chiara Guadagnino, Matteo Capurro. Per avere maggiori informazioni sui lavori stravaganti raccontati in questa puntata, andate sul sito www.radio24.it nella sezione programmi, oppure sulla pagina di Facebook di Tesi in Attesa. Noi torniamo domenica prossima alle 14.